Dovrebbe perlomeno essere difficile prendere una frase di, che so, di Iva Zanichin, ok, il prezzo è giusto, per una frase di Karl Marx nel Capitale, come dovrebbe essere difficile prendere un'affermazione di Le Monde, quotidiano ben pensante francese, per un'affermazione dei sacri testi del pensiero di sinistra. Dovrebbe essere difficile eppure c'è chi ci riesce. D'altronde, vabbè, in un paese democratico la felice libertà di restare ignoranti dovrebbe essere garantita a tutti. A tutti, ma non a chi dirige un giornale, dico io, e non contento, oltre a dirigere un giornale, dirige una trasmissione televisiva di 5 giorni da settimana che avrebbe la pretesa di spiegare agli italiani come comportarsi in occasione di questa porcata delle prossime elezioni, figlie di chi ha voluto il sistema maggioritario. Mi riferisco alla signorina Pia Luisa Bianco, che oltre ad aver recentemente assunto la direzione dell'Indipendente, quotidiano che contrariamente al suo nome è parecchio dipendente e che comunque sotto la sua direzione non tutto il male viene poi per nuocere avrà vita breve, oltre alla direzione del giornale conduce da qualche sera un'immonda trappola per votanti su una rete berlusconiana intitolata all'insegna del sagace manicheo, o di qua o di là. Basterebbe sapere che o di qua è scritto in azzurro e o di là è scritto in rosso, oddio mio, per capire dove sta la ragione, no? Questa trasmissione è l'ultima nata di una categoria vasta che già mi piaceva poco e nulla, categoria vasta comprendente i Ferrara, i Santoro, i Costanzo, Lerner, Riotta, De Aglio, eccetera, tutta gente che, sì, senza darlo troppo a parere, è pagata per convincere qualcuno di qualcosa. Certo, c'è chi lo fa con garbo e con intelligenza questo mestiere, chi con la coda di paglia fra le gambe, chi con la coscienza sgombra e chi con la coscienza parecchio affollata. Adesso con l'avvento di questa Pia Luisa c'è anche chi fa questo mestiere con la protervia dell'ignoranza, con l'inettitudine dell'improvvisazione e con la malafede del servilismo nel sangue. Il povero Berlusconi va capito, insomma. La barca sta affondando e in questi momenti cosa fai? Raccatti su quello che trovi, analfabeti di andata senza ritorno, ebeti in cattedre foraggiate dai padroni, riciclati della marcia su Roma e della Casa della Cultura, magari partiti dalla Casa della Cultura arrivati alla marcia su Roma, prendi su tutto assieme, paccottiglia dispersa in cerca di una sistemazione, no? Qualsiasi sistemazione, purché sistemazione, Al povero Berlusconi, insomma, nel momento del bisogno è rimasta in mano anche questa Pia Luisa, che fa quel che può. Grosso modo dagli stage bocconiani sulla comunicazione ha imparato una cosa: quando parla il tuo avversario, le devono aver detto tu di che non si è capito niente, attenta. Non dire che tu non hai capito niente, attenta, perché questo non sta bene al tuo ruolo, si addice di saperla lunga, no. Tu di che gli altri non hanno capito niente. Così gli altri, coloro che seguono la discussione, si ricorderanno soltanto della tua arguta sintesi, perché conta soltanto l'ultima parola, e l'ultima parola è la tua. Così la poverina l'altra sera, la Pia e la Luisa unite, dopo ogni intervento di Bertinotti concludeva: peccato che i telespettatori non hanno capito niente, oppure qui devo dare ragione a quel tale che dice che nello schieramento progressista si fa solo dell'aria fritta, oppure ancora qui gli spettatori, ahimè, non ci decifrano. Decifrano, che è il verbo più difficile che sa e a cui è molto affezionata. Il giochino nel ripetersi diventa un po' troppo scoperto. Anche in questo sporco mestiere ci sono delle regolucce da rispettare. La presunta difesa delle capacità di comprendonio dello spettatore, protratta oltre misura e nelle occasioni sbagliate, che so, per esempio quando parla Bertinotti a fronte di Urbani, che è un confronto improbo, come fra Einstein e Mike Bongiorno, Dio mio. Questa difesa d'ufficio per conto dello spettatore diventa presto offesa, perché diventa palese che il presupposto di fondo è che lo spettatore sia uno scemo cui si può far credere che sia, anche di non capire, quando invece ha capito benissimo. È una vecchia mossa per svalorizzare il discorso altrui, ma mentre nella contesa retorica era giustamente affare dei contendenti, liberi di usarne e a rischio di abusarne, qui è praticata d'ufficio, di default, come dicono i computeristi, come una velina di regime.